La guerra dei mondi. Frammentario di eventi e passioni che soffiano sulle braci del nostro presente. Un programma di storie nascoste, di cronache dimenticate, di passati possibili. Ricordare tutto quello che si è perso, perché le trame risuonino ancora nei battiti accelerati del nostro tempo. Fuori dagli annali di chi non ha più speranza, per sabotare la ruota del carro dei vincitori. Rari sono quelli che, in mezzo all'incomprensibile e al troppo comprensibile, hanno conservato un contenuto vivo. Al cuore della cospirazione di New York del 1741 sta una storia d'amore. I due innamorati erano John Gwynne, un tale dal carattere sospettoso che sembra facesse il soldato a Fort George, e Negro Peg, una celebre prostituta, che viveva nella taverna di John Hugson, nella zona portuale, sul lato occidentale di Manhattan. Poiché i soprannomi erano comuni al porto, dove gli stranieri e i loro segreti venivano ed andavano come le maree, si sapeva che Gwynne era uno schiavo afroamericano, conosciuto anche come Caesar, e Negro Peg, la ventunenne Margaret Carey, era nota anche come la bellezza irlandese di Terranova. Quando i due ebbero un figlio, il colore della sua pelle suscitò non pochi pettegolezzi. Qualcuno diceva che il bebè era bianco, altri che era nero. John Gwynne era un regolare frequentatore della locanda di Hugson, e non solo perché andava a trovare la sua amata. Spesso si presentava con un bel bottino: lini screziati, calze, monete d'argento, barilotti di burro, camicie, cera d'api, insomma un po' tutto quello che gli passava tra le mani, e lo consegnava a Hugson, il quale a sua volta si incaricava di piazzare la merce. La taverna di Hugson si prestava particolarmente a queste attività perché conteneva diversi comparti segreti dove era possibile nascondere anche la merce più scottante. Gli avventori della taverna sapevano della generosità di Gwynne ed erano sempre felici di vederlo. Un'altra cosa che si sapeva era che Gwynne e Peg erano coinvolti a fondo in quello che poco tempo più tardi fu definito il più orribile e distruttivo complotto che fu mai conosciuto in queste regioni settentrionali dell'America. Mi chiamo John Gwynne. Alcuni mi chiamano Gwynne. Il mio padrone, quel figlio di un cane, mi chiamava Caesar. Il mio vero nome lo sa solo il vento. Il nome della mia gente, dalla pelle, del colore della terra, dell'Africa. Ho lavorato nelle piantagioni a farmi le mani a brandelli sotto il sole cocente, la schiena curva sulle piante e giù frustate. Ho lavorato anche al Fort George, che sia dannato. Le mie braccia nere gli servivano a loro signori. Porta il carico lassù, negro. Muoviti, negro. Non fiatare, negro, dicevano. Ah, ma la pagheranno. Lo abbiamo girato. Qui alla taverna del vecchio Hugson, lui è con noi. Gli altri lo sanno. Che se hai fame o sete, lui te lo dà da mangiare un piatto e da bere un po' di sano rum, un po' di degno gin, sì, signore. Io e gli altri gli portiamo la roba, quello che si cava dai damerini, la refurtiva, insomma. E lui sì che te la piazza. Un po' te la lascia in conto bevuta, che se c'hai l'arsura non hai da grattarti la capa, perché i fratelli non devono elemosinare. È qui, su queste quattro assi della taverna di Hugson, che l'abbiamo giurato, che col fuoco li abbrustoliamo tutti maledetti. Prima è Fort George, prendere prima quello. che già anni fa, quando altri si sono sollevati, gli inglesi è là che sono andati e non era storia e gli hanno fatto il culo. Ma ora lo sappiamo, è lì che ci andiamo e saremo liberi, ma prima il Fort George. Fu nella taverna di Hudson che due amanti e un'altra dozzina di persone progettarono un'insurrezione generale per impadronirsi di New York. In quel 1741, il St. Patrick's Day, era la giornata consacrata al ricordo dell'abolizione della schiavitù realizzata da San Patrizio in Irlanda. Un rivoluzionario di nome Quack diede fuoco al Fort George di New York City, la principale installazione militare della colonia e una delle maggiori fortificazioni di tutta l'America britannica. Il fuoco covò per tutta la notte fino al giorno successivo. Gli impetuosi venti di marzo sospinsero le fiamme in tutta la città, che si sarebbe ridotta in cenere se un improvviso acquazzone e il cambiamento del vento non fossero intervenuti ad arrestarli. Ma il danno era compiuto. Il cuore stesso dell'autorità reggia, in questo importante porto atlantico, era ormai un ammasso di macerie fumanti. Fu il primo e più distruttivo di 13 incendi che nelle settimane successive avrebbero sparso il terrore a New York, dove ben presto si diffuse questa voce: i negri si stanno sollevando. Gli eventi del 1741 ebbero inizio lungo le banchine portuali della città. New York e altri porti atlantici alloggiavano guarnigioni militari incaricate di proteggere le città e i possidenti contro minacce interne ed esterne. Soldati come William Kane e Thomas Plumstead, stanziati entrambi a Fort George, trascinavano tra gli addestramenti, i turni di guardia e l'ozio una vita eternamente governata dal più silenzioso del nemico tra i soldati, la noia. Come centro brulicante di commercio, il porto di New York conteneva masse di lavoratori che prestavano servizio nel settore marittimo. La gente di origine africana, quasi tutti schiavi, era particolarmente importante per il porto, dal momento che rappresentava circa il 30% dei lavoratori. Brash e Ben, per esempio, lavoravano insieme sullo Hudson, dove caricavano il legname, mentre Mink lavorava in una fabbrica di corde. Gli spagnoli, o i negri mulatti, come venivano chiamati, erano tutti marinai, come anche gli schiavi Ben e London. Quack, invece, lavorava con i soldati a una nuova batteria nei pressi di Fort George. Dopo il lavoro, questi soldati, marinai e schiavi, si ritiravano nelle bettole, nelle taverne e nelle cosiddette case di disordine delle zone portuali, per bere cicchetti, punch e altri liquori forti, e dove si intrattenevano spesso fino alle 2 o le 3 di notte, bevendo, cantando e giocando a dadi. Qui raccontavano storie, talvolta esagerate, talvolta autentiche, come per esempio quelle sulla sommossa che nel 1712 aveva scosso New York. E qui imprecavano, gozzovigliavano, litigavano, ballavano e creavano un continuo disturbo della quiete pubblica. Dopodiché spesso si svegliavano nei sotterranei della City Hall, in cella. I ribelli del 1741 si spostavano lungo le banchine per i loro incontri segreti, riunendosi nel locale di Hudson o da un certo Saunders, sul molo. Le taverne erano il fulcro della loro attività, il luogo dove soldati, marinai, schiavi, servi a contratto e apprendisti si incontravano per vendere illegalmente merci rubate e arrotondare un salario magro o inesistente. Ma non solo. Qui gente di origine inglese, irlandese, africana, nativi americani e caribi si riuniva, discuteva, si confrontava. Le autorità non potevano bloccare facilmente il flusso dell'esperienza collettiva, perché la struttura stessa della città portuale e una tale combinazione di persone così diverse tra loro diveniva una miscela pericolosamente viva. Il tenente governatore Clark notava, con una certa vena profetica, che le transazioni illecite promuovevano un'abitudine all'ozio che, se non prevenuta, potrebbe nel tempo rivelarsi rovinosa. Vi Via via che il numero dei cospiratori cresceva, le antiche e più piccole bande che ruotavano intorno al porto si evolsero in forme organizzative di tipo quasi militare, pronte per scatenare un'insurrezione. Un fatto cruciale era anche che molti degli schiavi che arrivavano a New York avevano alle spalle una storia segreta di sobillatori. Ogni gruppo aveva il suo stile, le sue regole e le sue gerarchie, come anche i suoi problemi e le sue difficoltà. Tutti erano però d'accordo su due cose: il sentimento di vivere nell'ingiustizia e il desiderio di cambiare quella vita. Ogni compagnia aveva anche il suo tamburino, come il vecchio Tom, e il suo violinista, come Brave Boy, che, come affermò Albany in un'occasione del suo reclutamento, era necessario proprio in quanto violinista. Eppure l'insurrezione di New York fallì. Impossibile sapere che cosa andò storto, ma le informazioni di cui disponiamo fanno pensare che Quack, agendo con rabbia ed evidentemente motivato da un desiderio di vendetta personale, diede fuoco al forte con qualche settimana di anticipo, cogliendo tutti di sorpresa e facendo sì che i piani, accuratamente studiati, si traducessero in una serie caotica di piccoli incendi, con i ribelli che facevano il possibile per mettere in atto la sollevazione da tanto tempo pianificata. Ah, stramaledetto Quack, figlio di un cane! Perché ora? Perché adesso? Non dovevi farlo finché non eravamo pronti tutti. Si era detto maggio, i primi giorni si era detto, maledetto lui, ha infranto il patto, il giuramento. Avevamo scelto lui, che la moglie al forte, sì, proprio lì lavorava, la cuoca, cazzo, la cuoca del governatore della merda santa del fottutissimo Fort George, a fargli i piatti prelibati, e a noi patate e lardo rancido, se ti dice bene. Era un gioco da ragazzi, testa bassa per un po', prendi i tuoi insulti, negro, l'hai fatto per una vita, non fare cazzate. E quando sarà l'ora, vai lì in cucina e accendi il fuoco. Ma lui no, lui che fa? Gli dà fuoco il 17, per ripicca, che la moglie non gliela facevano più vedere, che ha fatto qualche casino. Più in là, a maggio, gli spagnoli dovevano arrivare e darci manforte, ma così no, Quack, cosa hai fatto? Ma ora dobbiamo andare, ormai tutto è iniziato. Dobbiamo portare il fuoco, dobbiamo andare. Data di massa, erano arrestate quasi 200 persone, nere e bianche, molte delle quali sarebbero state indagate e processate nei mesi seguenti. Peck, Axon ed altri furono imputati di cospirare, consociarsi e unirsi con diversi negri e altri per bruciare la città di New York e anche per uccidere e distruggere i suoi abitanti. La cospirazione era stata organizzata da soldati, marinai e schiavi provenienti dall'Irlanda, dai Caraibi e dall'Africa, quelli che le autorità chiamavano i reietti delle nazioni della terra. Ma tra banchetti, danze, brindisi e litigi, i reietti avevano sperimentato un'altra vita, lontana dalla miseria in cui venivano tenuti come un porto sicuro nel bel mezzo di una tempesta. Nella loro taverna la tavola era sempre imbandita di selvaggina fresca, proveniente dalla macelleria dove lavoravano alcuni cospiratori. Il tutto contornato da discorsi sovversivi a cui facevano seguito solenni giuramenti di solidarietà e promesse di rivolta. Nella bettola di Axon si praticava e si viveva un comunismo semplice. Quelli che non avevano soldi potevano mangiare a costo zero. Axon li invitava a passare nella sua locanda, li faceva sentire a casa propria e sempre benvenuti. Qui si trovava già quel mondo capovolto che i ribelli sognavano nei loro discorsi. Gli incendi del 1741 provocarono gravi danni alle proprietà e le autorità newyorkesi provvidero a punirli con un'abbondante carneficina umana. Nel corso di 6 pomeriggi e sere, tra la fine di maggio e la metà di luglio, 13 africani furono messi a rogo. In 6 settimane tra marzo e agosto furono impiccate altre 17 persone di colore e 4 bianche, tra le quali John Gwynne e Peg Carey, la cui storia d'amore finì sulla forca. Anche Axon fu impiccato e il suo cadavere, con quello di Gwynne, stretto in catene e lasciato marcire. 70 persone di origine africana furono deportate nei luoghi più disparati, da Terranova a Madeira, da Santo Domingo a Curaçao. 5 persone di origine europea furono costrette ad arruolarsi nell'esercito britannico, a quel tempo in guerra con la Spagna nei Caraibi, quella che in pratica, date le condizioni della vita militare, era una condanna a morte procrastinata. Sarah Axon, la figlia del locandiere, bandita dalla città per il ruolo della cospirazione, portò in un luogo sconosciuto il figlio di Gwynne e Peg. La natura cooperativa del lavoro nel porto aveva creato legami pericolosi insurrezionali. La storia d'amore di cui vi abbiamo parlato non è una storia d'amore come siamo abituati a pensare. Fu un caso di solidarietà che si sviluppò nel complotto. L'amore di John Gwynne e Peg Carey corrispondeva a un'alleanza più vasta. Per quelli che si riunivano da Axon, i bianchi erano, in codice e in gergo, i ricchi, quelli che avevano i quattrini, non semplicemente quelli dotati di un particolare colore della pelle. In questi ambienti newyorkesi la caratterizzazione razziale rimaneva fluida, aperta, spesso ambigua. Ma qualcosa non andò come sperato dalle autorità. Nell'arco di 3 mesi dall'impiccagione cominciarono a succedere strane cose. I resti di Axon, faccia, mani, collo e piedi, erano diventati di un profondo nero lucente, mentre i peli di barba e collo si stavano arricciando come il vello della barba e del capo di un negro. Inoltre, le fattezze del suo viso avevano assunto la simmetria di una bellezza negra: il naso largo e piatto, le narici aperte e allargate, la bocca grande, le labbra carnose e spesse. Gwynne, invece, che in vita aveva una delle tonalità più scure della sua razza, aveva subito in morte la metamorfosi opposta. Il suo volto era, a quel punto, piuttosto scolorito o era diventato biancastro. Alla fine si disse che Axon si era trasformato in negro e che Gwynne era diventato bianco. Si erano scambiati i colori. Questa leggenda si diffuse rapidamente, attirando l'attenzione di molti curiosi che si recavano come pellegrini alla forca per osservare la veridicità del fenomeno. Alcuni rimasero increduli, altri furono pronti a gridare al miracolo. Ribelli fino alla fine, Gwynne e Axon si erano presi un'ultima rivincita contro i bianchi in parrucca e pizzi. Perfino i loro corpi senza vita erano capaci di sovversione. On a dead man's chest. Yo ho ho and a bottle of rum. Drink and the devil be done for the rest. Yo ho ho and a bottle of rum. The mate was fixed by the bosun's pipe. The bosun brained with a marlin spike, and the cookie's throat was marred belike. It had been gripped by fingers 10, and there they lay, all good dead men, like break of day in a snoozing den. Yo ho ho and a bottle of rum. 15 men of them stiff and stark. Yo ho ho and a bottle of rum. 10 of the crew had the murder mark. Yo ho ho and a bottle of rum. 'Twas a cutlass swipe or an ounce of lead, or a yawning hole in a battered head, and the skipper's gut was yawning red. And there they lay, I darn my eyes, all lookouts clapped on paradise, all souls bound just contrariwise. Yo ho ho and a bottle of rum. 15 men of them good and true. Yo ho ho and a bottle of rum. Every man jack could have silver though pew. Yo ho ho and a bottle of rum. There was chest on chest of Spanish gold, with a ton of plate in the middle hole, and cabins riot with stuff untold. As they lay there, that had took the plum with a sightless glare, and their lips struck dumb. Well, we shared all by the rule of thumb. Yo ho ho and a bottle of rum. 15 men on a dead man's chest. Yo ho ho and a bottle of rum. Drink and the devil be done for the rest. Yo ho ho and a bottle of rum. 15 men on a dead man's chest. Yo ho ho and a bottle of rum. Drink and the devil be done for the rest. Yo ho ho and the proviamo ora a tratteggiare il quadro storico più generale all'interno di cui si svolsero gli eventi che vi abbiamo appena raccontato. Siamo nel 1741 e le forze che si scontrano nell'insurrezione, che gli storici accademici chiamano Great Negro Plot, vengono da molto lontano. Il nascente capitalismo è in rapida espansione e la politica imperiale degli stati europei comincia a produrre forza lavoro da impiegare nella nuova dimensione globale che il mercato sta assumendo. L'impero britannico è in rapida espansione, mentre quello spagnolo comincia ora il suo lento declino. Francia e Olanda non restano a guardare e la spartizione del globo in colonie e protettorati comincia ad affrontare le sue prime forti contraddizioni. Inoltre, aggiungerei che corsari al servizio dei vari imperi erano all'epoca strumenti diffusi di una guerra a bassa intensità che le diverse corone utilizzavano per colpire gli interessi commerciali dei propri avversari. Il territorio costiero degli Stati Uniti era occupato da 13 colonie. I coloni, sudditi dell'impero inglese e fedeli alla corona, superato il primo difficile secolo di insediamento, iniziano a sviluppare importanti centri di produzione e di smistamento di merci, i porti. Nodi fondamentali dei nuovi traffici di mercanzie e uomini, i porti della costa atlantica come New York, già Nuova Amsterdam e Boston diventano importanti centri logistici in cui si incontrano uomini e donne provenienti da quasi tutto il mondo conosciuto. Grandi quantitativi di merce, dunque, e di schiavi, e importanti flussi migratori come quello irlandese, cominciano a solcare le rotte oceaniche, iniziando così quella contaminazione di idee e pratiche che saranno fondamentali soprattutto per la resistenza ai poteri costituiti. Seguendo le correnti marine planetarie, le idee di libertà e giustizia sociale contamineranno New York così come Parigi. Ricordiamo appunto che la nostra storia si svolge solo pochi decenni prima di due grandi eventi che ridisegneranno il destino del mondo. La rivoluzione americana è del 1776, mentre quella francese è del 1789. Cerchiamo innanzitutto di vedere meglio chi erano gli insorti che si tentarono di impadronirsi di New York in quella notte di marzo del 1741. Le culture dell'Africa occidentale ebbero una posizione centrale nel piano per l'insurrezione. Le etnie presenti in quel momento a New York erano principalmente quelle dei Papa, provenienti dalla costa degli schiavi, degli Igbo, dell'area intorno al fiume Niger, e i Malgasci del Madagascar. E Il gruppo principale era costituito da africani della Costa d'Oro dell'Africa occidentale, i Coromantè. Più di uno di questi uomini era stato soldato semplice, addestrato all'uso delle armi da fuoco e al combattimento corpo a corpo in uno dei grandi eserciti di massa dell'Africa occidentale. Inoltre le tradizioni africane di resistenza non erano una novità per New York, visto che solo una generazione prima, nel 1712, in una delle più sanguinose rivolte che avessero mai colpito il continente nordamericano, una coalizione di schiavi proprio di provenienza Coromantè e Papa appiccarono il fuoco a un edificio, uccidendo poi diversi bianchi accorsi a spegnere l'incendio. Un altro gruppo presente nel movimento insurrezionale era quello irlandese, anche questo molto importante e decisivo. Questi cospiratori, come i loro compagni africani, mostravano una predilezione per la società segreta e i complotti. Gli irlandesi coinvolti, tra uomini e donne, non furono più di 35. La maggior parte di loro erano soldati, fratelli soldati, come si chiamavano fra di loro, proprio di stanza a Fort George. In quanto cattolici, intendevano innanzitutto bruciare la chiesa protestante inglese, ma anche l'odio per l'esercito fu un componente decisivo nella scelta di prendere parte all'insurrezione. Un altro fatto è che la carestia del 1728-29 in Irlanda, insieme all'intensificarsi dell'oppressione protestante, aveva creato nuove ondate di vagabondaggio e migrazione fra gli irlandesi. Questi vagabondi, chiamati i parassiti di San Patrizio, confluirono in massa negli eserciti europei, finendo così nelle periferie degli imperi come soldati o lavoratori militarizzati. Molti altri si trovarono semplicemente a vivere dalla parte sbagliata rispetto a leggi che stavano cambiando rapidamente per proteggere le nuove forme capitalistiche di proprietà, incappando così nei rigori della legge e finendo nelle Americhe come ospiti di Sua Maestà per 7, a volte 14 anni, deportati oltreoceano dopo aver ricevuto appunto lunghe condanne ai lavori forzati. I membri di una terza cellula all'interno della trama insurrezionale bisbigliavano fra di loro in spagnolo. Qui le figure principali erano marinai ispano-americani, negri e mulatti, catturati su un vascello corsaro all'inizio del 1740, portati a New York dalle Indie occidentali, condannati con il resto dell'equipaggio e venduti come schiavi. Noti tra i cospiratori come i cubani, probabilmente venivano dalla Habana, che era il maggior porto delle Indie occidentali spagnole e un centro importante di pirateria, di difesa militare e soprattutto di una popolazione nera libera. Oltre ad essere più avvezzi alla guerra, i marinai spagnoli avevano da mettere a disposizione una conoscenza che risultò fondamentale negli eventi del 1741. Ovvero la capacità e la conoscenza, insomma, sapere usare le cosiddette palle di fuoco, un tipo di armi incendiarie da tempo usate nei Caraibi, nelle guerre a base di razzie, saccheggi e incendi di città. I marinai afro-ispanici diedero al complotto anche un altro importante contributo, un esempio di libertà basato sulla propria esperienza marittima e un mezzo per metterla in pratica, tentando di coordinare la sollevazione dall'interno con un attacco esterno da parte delle forze spagnole. Ricordiamo infatti che l'impero spagnolo cattolico, in funzione anti-inglese, liberava gli schiavi e fondava città libere. Thank you. Vorremmo aggiungere inoltre che un'altra componente decisiva negli eventi del 1741 fu quella religiosa, dato che la cospirazione si verificò nel cosiddetto Grande Risveglio, in pieno Grande Risveglio. Infatti, a partire dagli anni 30 del secolo, su entrambe le sponde dell'Atlantico, si assistette a una vera e propria esplosione di entusiasmo religioso popolare. I religiosi itineranti, i più radicali, predicavano infatti un egualitarismo spirituale basato sul precetto biblico per cui Dio non fa preferenze tra le persone, attirandosi così l'odio di molti membri delle classi superiori coloniali. Molti schiavi erano vissuti abbastanza a lungo in colonie anglofone per comprendere e accogliere il messaggio cristiano dei risvegliati e anche per dotarlo di un significato rivoluzionario. Come spiega benissimo la testimonianza di un missionario anglicano, i negri hanno questa convinzione che quando ricevono il battesimo diventano immediatamente liberi dai loro padroni. Altro fattore decisivo per la nostra storia è che per i protagonisti di cui vi abbiamo appena raccontato, l'abbattimento delle colonie attraverso l'insurrezione parve realmente come una possibilità concreta. Infatti, negli anni 30 e 40 del Settecento, una lunga serie di complotti, rivolte e guerre percorse le società atlantiche come una sorta di uragano. Infatti, senza badare a confini nazionali o imperiali, un tornado insurrezionale si abbatté sui territori britannici, francesi, spagnoli e olandesi. La portata della sollevazione fu in effetti straordinaria e riguardò oltre 80 casi di cospirazioni, rivolte, ammutinamenti e incendi, una cifra probabilmente 6 o 7 volte maggiore del numero di eventi analoghi verificatosi prima del 1730 e nella dozzina di anni dopo il 1742. Ed è proprio all'interno di questo ciclo di ribellioni che le azioni degli schiavi africani, dei soldati irlandesi, dei marinai ispanici a New York nel 1741 assumono il loro significato più ampio e sovversivo. Gli storici hanno studiato questi atti di resistenza sempre come degli eventi isolati e raramente li hanno analizzati in una relazione reciproca, ovvero come un insieme dotato di coerenza e forza propulsiva collettiva. Naturalmente, tanto i ribelli quanto le autorità dell'epoca erano ben consapevoli di questa ondata generatrice di lotte, anche se i loro cronisti successivi non se ne resero conto. Come ultima cosa, ci fa piacere notare che all'interno di questo ciclo di ribellioni l'incendio fu il più comune strumento di distruzione, anche perché il fuoco era tra i diseredati la più accessibile delle armi, soprattutto per quelli che col fuoco lavoravano nel corso della vita quotidiana. Per concludere, un'ulteriore chiave di comprensione degli eventi del 1741 sta nella struttura stessa del commercio di New York. vera forza trainante di questa città di mercanti e lavoratori marittimi. Infatti all'epoca il traffico commerciale della colonia era principalmente bilaterale, ovvero 3 viaggi su 4 seguivano la rotta costiera caraibica, soprattutto verso Giamaica e Curaçao. Ciò significava soprattutto che le isole caraibiche fornivano la stragrande maggioranza degli schiavi della città, spesso proprio con lo scopo di arrivare all'equilibrio della bilancia commerciale. Meno di uno schiavo su 7 in arrivo da New York proveniva direttamente dall'Africa, nelle grandi navi negriere, navi che impiegavano mesi a raccogliere un carico e altri mesi ancora nella traversata dell'Atlantico. Cruciale ai nostri fini era il fatto che molti schiavi avevano alle spalle una storia di sobillatori. I piantatori delle Indie occidentali infatti mettevano in vendita proprio quegli schiavi che possedevano un carattere turbolento e indisciplinato e, cosa ancora più importante, quegli schiavi che avevano esperienze di resistenza. L'Assemblea di New York riconobbe l'esistenza di questo problema, approvando una risoluzione che metteva in guardia gli acquirenti proprio contro negri di scarto e malfattori. Insomma, si capiva benissimo che non si potevano importare schiavi senza importare con essi l'esperienza dell'opposizione alla schiavitù, specialmente dove essa aveva piantato radici più forti, come nelle piantagioni delle colonie del Golfo del Messico. La cospirazione rivolse dunque la sua attenzione non a ciò che usciva a bordo delle navi, bensì a ciò che con esse arrivava, e ciò che arrivava ancora e ancora e ancora dai porti caraibici erano gli schiavi. Una cospirazione dunque opera di un sottoproletariato composito, tendente a suscitare un'insurrezione urbana nata nel mondo del lavoro del porto, nella cooperazione organizzata di lavoratori di molti generi, le cui esperienze atlantiche diventarono i mattoni stessi con cui costruire la cospirazione. Una storia di un'insurrezione dunque, ma soprattutto la storia di un contagio. Has been raised from its watery grave. Here in sepulchral tone, a call to all, pay heed the squall and turn your sails to home. Thank you. Se questa sommossa, dopo 272 anni, ancora ci parla, non possiamo di certo ignorare la sua voce. E dobbiamo riuscire anche a capire il perché. In questo senso il nostro udito deve essere acuto ed andare oltre le rivendicazioni immediate di cui vi abbiamo raccontato, ovvero degli oppressi in rivolta. Dovremmo riuscire ad andare oltre le facili idealizzazioni romantiche delle figure carismatiche, per cogliere invece quegli aspetti che molto probabilmente a nostro avviso risuonano anche nel nostro presente. Vi abbiamo raccontato, vi abbiamo parlato, vi abbiamo fatto un racconto di bande di rapinatori, di prostitute, di predicatori sovversivi, di schiavi, di attingitori d'acqua. È evidente che del cielo degli eroi facciamo volentieri a meno. Ma qual è appunto o quali sono gli aspetti che ci interessa far emergere principalmente da questa storia? Prima cosa, innanzitutto, quella che salta subito agli occhi. Non c'è una classe che genera una tensione univoca e rivoluzionaria, come non c'è una chiara ideologia rivoluzionaria. Quello che c'è piuttosto è una tensione comune, uno stile di vita che si fa incredibilmente, quasi per magia, classe pericolosa. Gli uomini e le donne del fronte del porto vivevano condizioni formali e sostanziali di sfruttamento che erano veramente insostenibili. Condizioni formali, appunto, perché molti lo status di queste persone erano completamente diverso. C'erano gli schiavi, c'erano i lavoratori, non avevano tutti lo stesso stato sociale. Queste condizioni materiali, invece, che erano in comune, determinarono in qualche modo la necessità di muoversi soprattutto nell'illegalità. È anche attraverso questo terreno, o forse soprattutto attraverso questo terreno, che si sviluppò una solidarietà organizzata che si dimostrò il propulsore principale di questa sollevazione. Sì, ecco, ci sono nella nostra storia una serie di elementi che vorremmo evidenziare. C'è una costellazione di piani che ci interessa far emergere. Principalmente sono tre: il luogo, la composizione di classe piuttosto che le divisioni etniche, e il contagio nel quadro del cosiddetto ciclo caraibico delle ribellioni. Il luogo, la taverna come covo dei cospiratori, come spazio di incubazione e fermento delle idee sovversive. Il mondo alla rovescia, the world turned upside down, come lo chiamavano, in cui si sperimentò una sorta di comunismo semplice. Un comunismo semplice che viveva di mutuo soccorso, che viveva di mutuo appoggio e che appunto faceva della solidarietà il proprio propulsore. E per quanto riguarda il ciclo caraibico delle ribellioni, si tratta appunto di una comunicazione a distanza di spazio e di tempo tra le diverse sollevazioni. Ovviamente anche la questione, diciamo, della composizione etnica di questa rivolta risente ovviamente di un clima che va ben oltre la differenziazione razziale in base al colore della pelle, ma che appunto fa della classe degli oppressi il proprio collante, piuttosto che la... Ed è proprio lungo queste tre direttrici che si mosse la repressione dell'autorità inglese, in collaborazione con i grandi mercanti delle colonie. Ci fu un vero e proprio attacco alle taverne e alle bettole della città, con la chiusura di alcune di queste pericolose scuole della tradizione degli oppressi in rivolta. Un tale Daniel Osmander, capo della Corte Suprema di Giustizia della provincia di New York e membro del Consiglio dell'Esecutivo, è autore di una pubblicazione, un libro, con un titolo molto lungo che in italiano suona più o meno come Giornale del procedimento nella detenzione per la cospirazione formata da alcune persone bianche in congiunzione con i negri e altri schiavi per bruciare la città di New York in America e ucciderne gli abitanti. Ora, i nostri radioascoltatori non ce ne vorranno se citiamo le parole di un repressore, ma basta citare le sue parole per avere un quadro completo e del tutto esauriente della questione. Scrisse: «Sollecito una scrupolosa inchiesta sull'economia e sulle attività di tutte le infime birrerie e bettole presenti in città, soprattutto quelle che intrattengono i negri e in congiunzione con essi la schiuma e la feccia della popolazione bianca. Esse danno occasione a quelli tra noi che sono gli scarti più dissoluti, debosciati e derelitti, di complottare ed unirsi, maturando in queste scuole di malavita per l'esecuzione delle imprese più detestabili ed audaci. Temo che tra noi siano tante le case di questa natura, ed esse sono la vergogna e la peste della città. Sono state loro a fornire l'opportunità di covare questa orrida ed esecrabile cospirazione. C'è da notare che le autorità regolamentarono anche i pozzi, dove gli attingitori d'acqua si erano scambiati i piani e le notizie dell'insurrezione. Walked into town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sung to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you your summer wine. Summer wine. Strawberry, cherries, and an angel kissing spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I shall give to you summer. Tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line. And then she gave to me more summer wine. Summer wine. Strawberry, cherry. Sempre sulle direttrici della repressione è interessante notare una cosa, appunto, che nella citazione di Ostmander esce fuori con chiarezza. Cioè, questi luoghi, queste cose avevano creato un'unione, ed è una cosa a cui abbiamo anche insistito nel racconto, che scardinava proprio le divisioni razziali su cui si basava il sistema, insomma, coloniale. E questa cosa l'abbiamo vista negli atti processuali, e lo abbiamo visto soprattutto anche come successivamente si adoperò, diciamo, la repressione per caratterizzare questo evento. Cioè, non è un caso che la storia ce l'abbia consegnato come The Great Negro Plot, cioè la grande cospirazione dei neri. E per gli insorti questa distinzione nero-bianco non funzionava, cioè per loro i bianchi erano, in gergo, come abbiamo anche detto, i ricchi, cioè una classe o una come dire, un qualcosa che un'entità nemica a prescindere dal colore della pelle. Infatti, infatti c'è un caso molto interessante che si potrebbe appunto salvare dall'oblio della storia dei vincitori di questo servo irlandese, appunto, quindi bianco, di colore della pelle bianco, che in questa famigerata ormai taverna di Axon si alzò in piedi con un cicchietto di pancia in mano e giurò solennemente di fronte all'assemblea dei cospiratori che avrebbe ucciso quanti più bianchi possibili per vendicarsi. Ecco, appunto, rispetto a quello che dicevi tu, Calza, insomma, quindi, come esempio. Esatto, cioè la strategia invece, se andiamo a vedere, fu proprio di istituire, come dire, una distinzione. È importante notare che la prima volta che si utilizzerà la parola bianco per distinguere fra persone diverse è del 1680. E questa cosa è successiva a un altro tipo di distinzioni che erano tipo civilizzato, selvaggio, pagano, cristiano e così via. Il procuratore, per esempio, si appellava ai ribelli chiamandoli negri pagani, cioè perché ancora era forte questo tipo di distinzione. Invece chi venne ucciso, chi venne messo, insomma, alla forca, sostanzialmente soltanto persone nere. Cioè si insistette molto su questo fatto, si diede la grazia, si graziarono, insomma, alcuni bianchi che parteciparono a questa cospirazione, e proprio per istituire, come dire, una cosa che avrebbe poi funzionato molto anche in tutto, insomma, il secolo successivo, cioè in America soprattutto. E questo, insomma, si lega a tutto il discorso che abbiamo fatto su questa forma di vita in comune, e anche sul contagio. Cioè era un qualcosa che scardinava queste differenze e andava oltre a queste cose, ed era questo il pericolo maggiore. Ma io vorrei mettere un po' l'accento su, diciamo, sulla terza linea su cui si mosse la repressione. E come prima cosa vorrei cercare un po' di spiegare quali furono i motivi che spinsero i protagonisti della nostra storia a percepire come concreta la possibilità di un rovesciamento delle colonie attraverso un'insurrezione. E negli anni 30 e 40 del Settecento, infatti, tutto il territorio costiero del Nord America e delle colonie caraibiche venne sconvolto da un ciclo di ribellioni, sollevazioni, ammutinamenti e rivolte. Solo per fare qualche esempio, non lo so, nel 1732 una rivolta di schiavi a New Orleans, l'anno successivo una serie di ribellioni in South Carolina, Guyana olandese, Giamaica, l'anno successivo Bahamas, di nuovo la South Carolina. Nel 1738 nel Maryland, per esempio, diversi schiavi evasero da una prigione, unendosi poi a un gruppo di neri imboscati, dando vita a una guerriglia su piccola scala. E, insomma, diciamo un ciclo di ribellioni veramente potente. E a intensificare tutta questa serie di eventi ci fu la cosiddetta Maroon War in Giamaica, una guerra a bassa intensità che era iniziata, a dire il vero, nel secolo precedente, nel 1600, una guerra appunto tra impero inglese e i Maroon. I Maroon erano gruppi di schiavi liberi che vivevano nelle montagne della Giamaica, appunto in comunità libere, e la guerra sostanzialmente era fatta da un esercito irregolare di Maroon che effettuava razzie notturne saccheggiando piantagioni e liberando gli schiavi. Insomma, due decenni piuttosto turbolenti, e in cui appunto le esperienze di ribellione hanno un ruolo centrale. Insomma, per ritornare un po' al contagio, come è stato possibile questo contagio di idee e soprattutto di pratiche? Diciamo che gli schiavi, in quanto merce, avevano appunto un valore, e spesso gli schiavi che si ribellavano non venivano giustiziati, ma semplicemente venduti. E come abbiamo più volte ripetuto, insieme ai loro corpi viaggiavano soprattutto conoscenze ed esperienze di resistenza. Ed infatti proprio New York subì la stessa potenza di questo contagio rivoluzionario. E come dicevamo già prima, il commercio degli schiavi dei porti del Nord America viveva soprattutto su quest'asse caraibico, ovvero a New York arrivavano principalmente schiavi che avevano esperienze di lotta nelle piantagioni. E pratiche di lotta che appunto i nostri protagonisti, Gwyn e gli altri, cercarono subito di mettere all'opera. Insomma, per cercare di eliminare la possibilità di future insurrezioni, diciamo, vennero prese decisioni volte proprio a ristrutturare il commercio degli schiavi, con lo scopo di smembrare e all'inizio ricomporre la popolazione delle colonie. Una, diciamo, collaborazione inedita tra autorità governative e grandi mercanti. Infatti, d'ora in poi, dopo il 1741, le navi negriere avrebbero viaggiato molto di più sulle rotte africane che su quelle delle coste dei Caraibi. Una tratta più lunga e costosa, ma che sicuramente si risparmiava sull'importare schiavi incorreggibili, malcontenti, insuscettibili di ravvedimento dalle vicine piantagioni. Al loro posto, africani brutalmente sradicati dalla loro terra, opportunamente isolati, che subivano uno shock talmente forte da minare quasi ogni modo di sollevazione. Per concludere, vorrei notare come tutto ciò alla lunga forse si rivelò inadeguato, visto che proprio quelle idee di libertà che erano germogliate nelle carene delle navi negriere e che erano diventate una pratica nelle rivolte delle piantagioni, sulle navi corsare, nelle comunità di uomini liberi, nell'insurrezione di New York, probabilmente sono le stesse idee e pratiche che condussero poi gli stessi coloni bianchi alla rivolta contro la madrepatria nel 1776. E forse dopo, cavalcando le correnti oceaniche, ritornarono in Europa nelle trame della prima rivoluzione europea, quella francese del 1789. Insomma, una storia di piccoli eventi che poi di fatto hanno fatto la storia, anche magari a discapito di quello che si studia appunto normalmente sui libri di storia. Piccoli eventi che però hanno rivestito un'importanza cruciale, o piccole storie nascosti dentro grandi eventi, che saranno magari le prossime storie che vi racconteremo nelle prossime trasmissioni. Saluto agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa e soprattutto quelli e quelle privati della libertà. Questa è la fine? Forse. Ci vediamo alla prossima Guerra dei Mondi, la settimana prossima.